Ecco, infatti, questa è un'altra cosa. La sua comunque è stata una vita internamente, quindi all'interno della famiglia, così ricca. Si rifletteva anche fuori, perché poi i miei amici erano Alberto Camerini, che era nato in Brasile perché i suoi erano scappati per le leggi razziali, Oliver Strimple, un altro ragazzo ebreo che era nato in India, vissuto in tutto il mondo, multilingue, erano personaggi. Demetrio Stratos, che era nato ad Alessandria d'Egitto pur essendo greco, era un mondo molto cosmopolita, no? Perché appunto mia madre frequentava le poche donne come lei che si trovava, no? Quindi i loro figli erano i miei amici. Quando decide di cominciare a fare seriamente musica? Ah beh, molto presto. Io già prima di andare all'università mi ero preso un anno sabbatico per suonare, avevo suonato e lavorato di giorno, avevo suonato professionalmente, quindi sono iscritto all'EMPAS da tempo immemorabile, credo siano 42 anni oramai, e suonavo con Marino Marini, tra l'altro, forse lei non se lo ricorda, ma se le canto Marina, capisce cosa era lui, ecco. Erano proprio i miei inizi, no? E poi sono andato in America all'università, dove mi sono reso conto che non avevo alcuna voglia di diventare un universitario americano, quindi tornato in Italia ho trovato un contratto con Lucio Battisti, che era quella casa discografica di Lucio Battisti, e chiaramente ha vinto lui. La prima volta che ho fatto l'amore non è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato, era un momento troppo importante. Da troppo tempo lo aspettavo, ora che era arrivato, non era come nelle canzoni, mi avevano ingannato. Ma l'amore non è nel cuore, per riconoscersi dall'odore. E non può esistere l'affetto senza un minimo di rispetto. E siccome non si può farne senza, devi avere un po' di pazienza, perché l'amore è vivere insieme. Volersi bene, ma l'amore è fatto di gioia, ma anche di noi.

di dare una svolta anche artistica profonda. Quando mi hanno poi chiesto di fare un disco di musica classica contemporanea con un ensemble che si chiama Sentieri Selvaggi e il maestro Carlo Boccadoro e Filippo Del Corno, e lì ho dovuto, per fortuna avevo studiato con mia figlia, per cui un minimo riuscivo a leggere, a relazionarmi all'interno di quel linguaggio che avevo abbandonato a 13 anni. E direi che i figli proprio sì, non solo ti condizionano, ma ti indirizzano in un certo senso. Anch'io credo che sia così. E quello che le voglio chiedere in chiusura di questa intervista è se secondo lei la musica salva la pelle in qualche modo. Sì. Purtroppo la musica, come le dicevo prima, è un linguaggio e se lei pensa che noi pensiamo parole, cioè tutti, anche un pittore, se pensa a rosso pensa alla parola rosso. Gli unici che non pensano parole, che quindi non sono condizionati dalla lingua in cui sono nati, dalla sintassi, che hanno dei pensieri astratti, sono i matematici, ovviamente, che pensano numeri, e i musicisti, che pensano note, che se io le faccio, non so che note ho fatto, onestamente non sono così bravo, e non ho pensato delle parole, è un'altra forma di pensiero, e la capacità di avere un'altra forma di pensiero è già di per sé una ricchezza incredibile, come conoscere un'altra lingua, ma conoscere un altro sistema operativo del proprio cervello apre delle porte straordinarie. E purtroppo, siccome chi non possiede questo linguaggio non capisce neanche di che cosa si sta parlando, non si insegna, per esempio, nelle scuole fin da subito a capirlo. Ci sono dei paesi in cui questo viene fatto, l'America, l'Inghilterra, i paesi nordici. La musica fa parte, si studia la storia della musica come si studia la storia dell'arte da noi, e questo dà la capacità di ascoltare, non di fare musica, ma almeno di decifrarla, di ascoltare musica più complessa. Purtroppo l'ignoranza musicale in Italia, che era stata per secoli la capitale della musica, negli ultimi anni è aumentata spaventosamente, per cui tantissima gente non ha il dono dell'ascolto, no? non sa decifrare un minimo di complessità, di polifonia, di politonalità, è persino difficile far battere gli italiani a tempo, che è un grande peccato. La prima volta termina qui. Venite a trovarci su Facebook all'indirizzo radio24 la prima volta. Ciao, a domenica prossima da Cristina Carpinelli. Io ti proteggerò, o sì, ti stringerò, e mai niente ti farà del male. Io ti accarezzerò e poi ti cullerò per farti addormentare, e ti canterò canzoni di forti emozioni quando fuori tuona il temporale, e sempre ti sussurrerò quelle dolci parole che so ti fanno stare bene. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. Farò una casa di carta su un'isola deserta dove il vento verrà a giocare. È una finestra sempre aperta per chi sa volare, che da noi possa arrivare a riposare. E ho braccia forti e larghe spalle per poterti meglio abbracciare. E se fa freddo la notte, col mio corpo ti potrai scaldare. Dopo ore, ore, ore d'amore, sul mio petto ti farò dormire, e sognerai di ballare da tempo col mio cuore, e il sole ti verrà a svegliare. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. Piccole cose da riscaldare, grandi aquiloni da far volare. E sarà sempre un nuovo gioco per tenere acceso il fuoco nel lungo tempo da venire. Piccole